Incontri di Gianfranco Fabi. In nessun luogo andai, per niente ti pensai, per nulla ti mandai, per mio ricordo. Sul bordo m'affacciai, t'abissi per gli assai. Sul dolce tedio a sdraio, amore ti ignorai, invece costeggiai in un domani. Con la voce di Lucio Battisti iniziamo l'incontro di questa sera. Buonasera a quanti ci ascoltano e buonasera a Graziano Giacomini. Buonasera. Graziano Giacomini, amministratore delegato di Trafalgar, poi ci spiegherà che cos'è Trafalgar, che cosa svolge, che attività compie appunto questa società. Ma prima cominciamo da Lucio Battisti, come mai le piace questa canzone? Ma mi piace questa canzone che denuncia anche l'età anagrafica, soprattutto perché si chiama Le cose che pensano e io penso che parlano di noi le cose che ci circondano, le cose che facciamo, e questo mi ha sempre colpito. Ecco, Trafalgar è una società che si occupa di investimenti, opera come un fondo di private equity. Innanzitutto lo spieghiamo, anche se Radio 24 di private equity si parla molto spesso, però forse a quest'ora della sera se ne parla di meno. Che cos'è il private equity? Ma a dire la verità ci hanno detto qualche anno fa che noi facevamo come un fondo di private equity, per cui ci siamo accorti che interessarsi di attività nuove, di progetti nuovi di altri imprenditori che potessero integrarsi con i nostri poteva essere un modo per uscire dalla crisi degli ultimi anni, insomma. Per cui abbiamo cominciato a guardare un po' con curiosità, un po' anche per necessità, alle iniziative che c'erano intorno e abbiamo cominciato ad investire su alcune attività e ci hanno detto che facevamo del private equity. Ecco, quindi a vostra insaputa facevate del private equity, che è una cosa moderna, per dire, poi una cosa abbastanza elementare, cioè intervenire, investire in società, cercare di aiutare la crescita, anche ovviamente guadagnandoci di queste realtà. Ma com'è nata Trafalgar? Mi pare suo padre l'ha fondata. Ma Trafalgar nasce da un'idea di mio padre, che appunto ha sempre detto che meno inglese si parla più lui capiva, per cui lui è sempre stato molto interessato nell'innovazione industriale, nell'automazione. Ha creato una società di robotica perché non trovava negli anni 70 le tecnologie che gli servivano. E questo nome inglesizzante Trafalgar è una traslitterazione che nasce da Flavio, che si chiama mio fratello, io che mi chiamo Graziano. Poi abbiamo trovato un logo che ci rappresentava abbastanza e siamo partiti con questa iniziativa. Quindi è un nome appunto che designa un modo di essere della società, un modo appunto di un'azienda familiare in cui la successione è già avvenuta tra padre e figlio. La successione è avvenuta già oramai una ventina d'anni fa. Come vi siete divisi tra i due fratelli? Mio fratello Flavio, che ha avuto esperienze negli Stati Uniti, ha studiato là e è molto più portato alle cose tecniche e all'organizzazione, e sta sui nuovi prodotti, segue le società produttive e si occupa soprattutto di questo. Io mi occupo di tutto quello che lui ritiene noioso, mentre io ritengo noioso quello che fa lui. Per cui mi occupo della comunicazione, mi occupo della parte amministrativa, finanziaria, fiscale e così via. Ecco, c'è qualche momento di contrasto comunque ci può essere stato. Momenti di contrasto veramente pochissimi, dovuti obiettivamente a mamma e papà, che hanno fatto un lavoro egregio quando eravamo ragazzi. Quindi azienda familiare può non essere un limite, può essere anche un punto di forza. Poi una delle forze è frequentarsi pochissimo quando si ha del tempo libero, secondo me. quindi ognuno faccia per la sua strada. Ecco, Trafalgar è comunque una società che ha partecipazioni in oltre 40 aziende quotate e non quotate, partecipazioni di maggioranza, di minoranza, soprattutto nel campo dell'alta tecnologia, della robotica, dell'automazione, delle infrastrutture, dei beni di lusso. Ecco, ma qual è il core business? Il core business sono la parte produttiva, che sono una società che si chiama IBUR, che produce componenti e impianti per il riscaldamento, e adesso sta spostando su sistemi più complicati, che è un'azienda che abbiamo acquistato una quindicina anni fa. E l'altro core business è quello dell'automazione industriale, che va dall'automotive agli orologi, all'elettronica, per cui siamo trasversali su questo tipo di prodotto. Avendo investito, abbiamo persone, investito in modo produttivo, il resto è molto immateriale, ci piace molto il lusso, quello italiano, e le infrastrutture un po' internazionali, perché abbiamo sempre pensato che non si può fare solo, cioè non c'è finanza senza industria, non c'è industria senza finanza, per cui bilanciare un po' le cose provando a non cavalcare chimere, bolle strane, insomma. Ecco, voi praticate l'innovazione, da quanto si capisce appunto da questa descrizione. Si tratta appunto di industrie che lavorano molto, molto sull'innovazione di prodotto, sull'innovazione capace di dare efficienza ai sistemi di riscaldamento, ai sistemi di distribuzione e così via. Ma si dice che l'Italia è un paese un po' ostile all'innovazione, è vero? Voi siete una mosca bianca in questo settore, oppure con un po' di volontà si può anche fare innovazione in Italia? Distinguerei il paese dall'imprenditore. L'imprenditore è molto innovativo. Il paese, per forza di cose, siamo un paese sotto tanti punti di vista abbastanza arretrato sulla rete, sulle fibre ottiche, su diverse infrastrutture, per cui facciamo un po' fatica. Gli imprenditori sono assolutamente geniali. Gli imprenditori italiani sono al primo posto nel mondo in quasi tutte le categorie merceologiche, non come quantità ma come qualità dei prodotti. Siamo molto innovativi, direi che abbiamo un genio ma non abbiamo il metodo, che è il nostro limite. Abbiamo imprese piccole, imprese familiari, un'attività finanziaria abbastanza limitata, banche, assicurazioni, e veramente poche aziende che possono andare sui mercati esteri veramente in modo forte. Quindi c'è spazio anche per nuove iniziative basate appunto sulla capacità di intraprendere, sulla visione, sulla capacità di innovazione, facendo un po' fatica a risolvere i problemi burocratici, fiscali, amministrativi, contabili che sono davanti ad ogni attività, in fondo. Questo è uno scoglio abbastanza grande. Io vedo per l'attività di Trafalgar parecchie quelle che si chiamano start-up, insomma, e gli scogli burocratici rispetto a società straniere sono molto, molto importanti. Si spendono, che per un ragazzo giovane possono essere già tanti, 5, 6, 7 mila euro solo per cominciare, e questi possono essere spesi per, non so, una stampante 3D, insomma. Certo, invece che per compilare moduli e chiedere permessi e pagare marche da bollo. Esatto. Ci fermiamo un attimo, ci risentiamo tra qualche minuto, grazie. BMW Free to Ride, il nuovo finanziamento per il tuo maxi scooter BMW. Info su bmwmotorrad.it. Vi presenta Incontri. Con Lucio Battisti, con Le cose che pensano, riprendiamo il nostro incontro di questa sera con Graziano Giacomini, amministratore delegato di Trafalgar. Grazie a quanti sono restati con noi, grazie a quanti ci hanno raggiunto all'ascolto. Per questi ultimi diciamo che Trafalgar, di cui appunto Graziano Giacomini amministratore delegato, è una società che si occupa di investimenti in Italia e all'estero, è un fondo di private equity, ma soprattutto è una società industriale che ha partecipazioni in altre società, soprattutto nell'ambito delle innovazioni innovazioni della robotica, dell'aerospaziale, delle biotecnologie, nelle energie rinnovabili, nelle infrastrutture, cioè una serie di, una costellazione di piccole e medie imprese che guardano in avanti, guardano appunto all'innovazione come un elemento competitivo essenziale. E come vede, dottor Giacomini, l'attuale momento economico? Si parla di ripresa, c'è qualche segnale di ripresa anche in Italia, non solo sui mercati esteri? Ma quello che posso vedere dal nostro piccolo osservatorio è che la ripresa sui mercati esteri è sicuramente già partita almeno da qualche mese, se non anche già dall'anno scorso. Quello che vedo da noi in Italia è che le aziende che esportano hanno questa ripresa, diciamo, spinta dalle esportazioni e dall'estero. Vedo veramente ancora poca domanda interna. Il vero problema è la domanda interna, che è difficile far ripartire per tante ragioni: ragioni demografiche, ragioni di politiche fiscali, ragioni appunto anche di capacità del sistema paese di rimettersi in carreggiata, di ridare un po' degli obiettivi di crescita. Ma secondo me non siamo, diciamo, peggio dei nostri partner europei, manca forse un po' di ottimismo e deve ripartire la macchina che è il motore trainante del paese, che è l'edilizia. Noi siamo impegnati nel settore edile, nel senso che i prodotti che costruiamo come conviviere vanno negli impianti di riscaldamento, per cui vanno nelle case nuove o nelle ristrutturazioni, e il mercato è veramente, veramente stagnante. E forse qualche incentivo in più sulla casa, che è sempre stato, diciamo, il bene primario per l'italiano e che è stato così colpito negli ultimi anni, ma per necessità, e questo potrebbe essere qualche aiuto, perché storicamente, che mi ricordo io, è sempre stata l'edilizia e l'automobile che hanno mosso l'economia del paese. E su questo fronte in Italia, appunto, che hanno mosso l'Italia, siamo un po' fermi. Guardando un po' all'esterno, quali sono i mercati più promettenti, quali sono i mercati su cui anche l'innovazione italiana può fare premio, su cui magari, per esempio, voi puntate con le vostre imprese? Ma il mercato principe rimane sempre gli Stati Uniti, che è il mercato più grande del mondo, e, diciamo, evoluto più grande del mondo, e che ha sempre fame di nuovi prodotti e soprattutto di Made in Italy, dove siamo riconosciuti su tantissime categorie merceologiche, dalla moda alla tecnologia, alle automobili, tutto quello che vogliamo. Chiaramente vedo e guardo con interesse all'Africa, perché sono tanti e cominciano a superare il discorso dei bisogni primari, a parte i problemi politici. Certo. E Cina, India, vedo poca Europa, perché siamo tanti, siamo in spazi piccoli e siamo molto concentrati sul benessere singolo, meno che su quello del paese. Ecco, in questa prospettiva, il calo del dollaro è certamente qualcosa che può aiutare le vendite verso gli Stati Uniti, in cui appunto i prodotti italiani possono avere del valore aggiunto nella competitività, non solo sull'innovazione, ma anche sulla bellezza, sul design, sulla capacità di rispondere appunto a certe dimensioni che non sono quelle strettamente dell'efficienza, ma sono anche quelle di avere dei prodotti che siano appaganti da un punto di vista del mercato. Ma il genio italico negli Stati Uniti è stato sempre riconosciuto, per cui quello che è, diciamo, il vivere nel modo italiano, come la traduzione di quello che dicono loro, è ambitissimo, dal cibo, dalla moda, dalle automobili. So che collaboriamo con un sacco di attività aerospaziali, per esempio, negli Stati Uniti, e siamo dei partner stupendi su queste cose. E il nostro nome è ancora molto molto molto forte a livello globale. Purtroppo i brand non sono, diciamo, soprattutto quelli di aziende abbastanza piccole o medio piccole o anche solo medie, sono molto polverizzati, perché entrare negli Stati Uniti a fare una distribuzione di qualsiasi cosa costa tantissimo. Ecco, quindi c'è anche un problema appunto di strategie commerciali e di difficoltà appunto sotto questo profilo. In questo forse il sistema paese aiuta poco a entrare in nuovi mercati. Ma non abbiamo un sistema paese, nel senso che è difficilissimo averlo, perché abbiamo talmente tante categorie merceologiche che vanno su questi modelli, che siamo altamente polverizzati, non ne farei un problema di paese, siamo proprio fatti così. Certo, ecco, torniamo a Trafalgar, torniamo alla sua impresa che è appunto il capofila di un gruppo di imprese in cui, in cui avete partecipazioni di maggioranza, di minoranza. Qual è diciamo, l'elemento, il prodotto, l'innovazione di cui va più orgoglioso in questi ultimi anni che avete fatto, che avete proposto sul mercato, magari anche a livello di business to business? Ma, me ne vengono in mente tanti, ma posso citare l'ultimo. Con l'Università di Pavia e con una società svizzera che si chiama SEAS, abbiamo collaborato e produrremo presso di noi una macchina che produce, estrae l'acqua dall'aria e può essere utilizzata dai campi profughi a posti dove non c'è l'acqua, perché può essere anche imbottigliata, a dei costi quasi accettabili che diventeranno accettabilissimi in un prossimo futuro. E benché siamo solo un partner tecnico, come VR è una cosa che ci piace molto, perché siamo partiti da un rubinetto, da una valvola, e abbiamo sviluppato con l'Università di Pavia un macchinario completo. Questo mi piace molto il progetto. Cioè il progetto proprio come tipo di iniziativa, qualcosa a cui normalmente non si pensa che sia possibile, produrre l'acqua attraverso l'aria, eppure è possibile, e quindi può essere una soluzione anche a livello, diciamo, sociale, di intervento in zone in cui l'acqua è veramente un bene essenziale ma difficile da trovare. Ma dicono che l'acqua sarà il petrolio del prossimo secolo, e in realtà anche la storia ci racconta che sono state fatte moltissime guerre anche in passato per il controllo dell'acqua, sia in Italia meridionale che anche nel resto del mondo. E quello che mi appassiona di più è il fatto che da azienda produttiva, con la nostra azienda produttiva, siamo riusciti a diventare un'azienda di engineering, insomma, non il prodotto ma il progetto, e questo mi piace moltissimo. Ecco, voi avete appunto una rete di società collegate in cui avete anche partecipato in maggioranza, che sono circa 40. Non è complicato gestire o essere presenti, vedere, seguire, promuovere queste imprese, queste aziende? Sono piccole e medie aziende, ma comunque sono aziende che hanno una loro identità, una loro necessità di avere delle strategie molto, molto definite. È complicato ma è stimolante. Prima di tutto quelli in cui siamo veramente operativi sono 6 o 7, insomma, per cui il tempo è limitato ma riusciamo a seguirle, e le altre sono partecipazioni, tra cui di aziende quotate in cui abbiamo delle quote francamente molto piccole, dove la fase di controllo viene fatta da chi deve farla, insomma. E più che complicato è stimolante. Quello che è veramente complicato è cercare di rendere, di dare un senso al tutto, perché deve essere un progetto sinergico e non sempre riesce a essere sinergico. Comunque, diciamo, i risultati degli ultimi anni la soddisfano. Avete, in un periodo di crisi, siete riusciti a stare a galla innanzitutto, ma anche a cercare dei percorsi di crescita. I risultati non mi soddisfano perché, siccome sono molto pigro, faccio fatica a lavorare per poco, e gli ultimi anni sono stati veramente, rispetto agli sforzi, pur avendo avuto dei risultati direi lusinghieri per il periodo, gli sforzi sono stati estremamente superiori ai risultati ottenuti. Lo scenario è più difficile, più complicato, ma forse anche perché diamo un'immagine di un paese un po' più affaticato di quanto non lo sia, un po' più incapace di rispondere alle difficoltà di quanto non lo sia. È un paese che comunque ha delle grandi risorse, forse dobbiamo magari avere un po' più fiducia noi stessi nel nostro paese. Ma noi siamo un paese di risparmiatori, e come tutte le formichine, appena c'è un rumore, appena c'è una minaccia, ci ritraiamo e cominciamo a risparmiare, a non spendere. Questo atteggiamento contemplativo è quello che ci distingue per esempio dagli americani, dove se hai la macchina di 3 anni, l'automobile di 3 anni, e la vuoi cambiare a tutti i costi anche se non hai il denaro. Essere formichine è un valore, però fino a un certo punto bisogna anche poi qualche volta riuscire a pensare e a guardare al futuro come qualcosa di costruttivo. È un valore contadino che è nelle nostre forze, ma non forse non funziona più. Siamo in conclusione, cioè, che sogno nel cassetto ha Graziano Giacomini, che sogno imprenditoriale vorrebbe realizzare nei prossimi mesi, nei prossimi anni, anche se già il suo, non chiamiamolo impero, ma il suo gruppo è certamente un gruppo già abbastanza differenziato e presente in molti settori. Il mio sogno, quello anche di mio fratello e della mia famiglia, è quello di realizzare qualcosa che possa andare avanti da solo senza di noi. Quindi mantenere una realtà produttiva per il paese all'interno di una dimensione di crescita, appunto, pensando all'azienda come una realtà sociale, non solo come una realtà di proprietà. Esatto. Grazie mille, grazie a Graziano Giacomini, amministratore delegato di Trafalgar, di essere stato con noi questa sera. Abbiamo cercato di guardare una realtà forse poco conosciuta, però una delle tante realtà di questo nostro paese che possono dare delle prospettive positive. Guardando in avanti abbiamo delle potenzialità da sfruttare e ci sono molti, moltissimi imprenditori che cercano di seguire, appunto, le strade della crescita, le strade dello sviluppo, strada di uno sviluppo che non è solo personale, ma è soprattutto sociale, soprattutto affidato all'intera società. Grazie appunto a Graziano Giacomini, grazie a Carmelo Lauricella in regia, a Guido Scotti in redazione. Vi ricordo che questo programma può essere riascoltato, commentato, chiosato guardando il sito www.radio24.it. Grazie e per quanto resta, buona domenica.